GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Trieste, maxi evasione fiscale scoperta dalla Guardia di Finanza, sequestrati beni per 1,5 milioni a un imprenditore locale, ricavi non dichiarati per 13 milioni, acquistati Rolex e auto di lusso. Nessun allarme e sicurezza all'aeroporto di Ronchi dei Legionari a seguito di recenti attacchi hacker ai sistemi informativi e incursioni con droni sui cieli dei paesi NATO dell'est, lo assicura l'amministratore delegato Consalvo. Non possiamo restare in silenzio, appello per la pace da Gorizia e Nova Gorica, vescovi italiani, sloveni e croati uniti contro violenza e disumanità, presente anche il cardinal Zuppi. Cercasi disperatamente artigiani, il lavoro c'è ma manca il personale di fronte alle nuove tendenze dei consumatori che oggi preferiscono riparare invece che comprare. Radiologia di servizi e dimissioni nel Pordenonese, cresce la preoccupazione sull'appalto ai privati, sguarniti dai servizi gli ospedali, la denuncia dal coordinamento salute FVG. Gli studenti dell'osservatorio antimafia in visita alla DIA di Trieste, la legalità è strumento di libertà. Mentre il mondo piange la morte dell'amata diva Claudia Cardinale, noi la ricordiamo giovanissima nel film Senilità, tratto dall'omonimo romanzo di Italo Svevo e ambientato a Trieste. Cinema e istituzioni insieme per promuovere la regione tra cultura, paesaggio e vino locale. Il Friuli Venezia Giulia, protagonista del nuovo film, esprime un desiderio. Fedeli d'amore debutta l'opera tratta da Un altro mare di Claudio Magris, prima a Gorizia il 27 settembre nell'Hangar, poi al Verdi di Trieste. Buongiorno da Anna Vitaliani in studio e Lorenzo Gerlinzoni qui con me. In apertura la cronaca: al nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste, a conclusione delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica Giuliana, ha sequestrato oltre 1,5 milioni di euro in beni immobili, immobili e valori ad un noto imprenditore triestino indagato per evasione fiscale e autoriciclaggio, lo rende noto la Guardia di Finanza di Trieste tramite una nota stampa. L'imprenditore e proprietario tramite due aziende di vari negozi di ottica aveva omesso di presentare le dichiarazioni fiscali per gli anni dal 2020-2023, non dichiarando ricavi per un valore di 13 milioni di euro ed evadendo di conseguenza il pagamento di IRPEF e IRES. Riscontri investigativi hanno permesso di accertare che i proventi dell'evasione fiscale erano poi utilizzati a fini personali, come l'acquisto di un'abitazione residenziale in una rinomata area turistica triestina, di due auto di grossa cilindrata e di una vera e propria collezione di Rolex composta da 14 orologi. Nel corso delle operazioni di perquisizione sono stati inoltre rinvenuti 27.000 euro in contanti, in tagli da 100 e 200 euro, che sono stati anch'essi sottoposti a vincolo cautelare. A disporre il provvedimento di sequestro è stato il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Trieste su richiesta del pubblico ministero competente. Parliamo della sicurezza dei nostri cieli. Nelle ultime settimane si sono moltiplicati infatti gli attacchi hacker ai sistemi informatici di diversi aeroporti europei, causando disagi ai voli e quindi ai passeggeri e alle stesse compagnie aeree. Per non parlare delle incursioni di droni sui cieli dei paesi NATO dell'est, dal Baltico alla Romania. Come si sta affrontando questa situazione allo scalo aeroportuale di Ronchi dei Legionari? Lo abbiamo chiesto all'amministratore delegato del Trieste Airport, Marco Consalvo, sentiamo. A parte i droni, è chiaro che l'aumento del cyber security come tema, perché i sistemi informativi stanno crescendo ovunque, è un tema all'ordine del giorno. In Italia c'è un'agenzia, che è l'Agenzia di Cyber Security Nazionale, che ha dei protocolli per cui noi segnaliamo tutti gli attacchi hacker, perché ce ne sono, e poi ci sono dei report che vengono fatti. Però devo dire che ad oggi sulle operazioni, sulla sicurezza delle operazioni di volo, non abbiamo da riscontrare nulla come cambiamento sul livello della sicurezza. Parliamo di un territorio, il Friuli Venezia Giulia, dove c'è la presenza della base NATO. Questo ci rende più o meno sicuri? Dal nostro punto di vista, al momento, noi non abbiamo nessun tipo di segnalazione che ci può far dire che è cambiato il livello di sicurezza. Dicevamo che un'altra minaccia è quella degli hackeraggi. Abbiamo visto qualche giorno fa molti aeroporti europei finire nel caos. In Italia però non ci sono state conseguenze particolari. Sì, perché il sistema informativo di cui abbiamo sentito ai telegiornali questi giorni su aeroporti del nord Europa sono sistemi informativi diversi da quelli utilizzati in Italia. Ci sono attacchi hacker continui, ma ci sono dei sistemi sentinella, dei software sentinella che ad oggi riescono a preservare gli attacchi sui sistemi informativi degli aeroporti. Che tipo di competenze servono e serviranno per la sicurezza aerea? No, ma chiaramente tutta la parte dei sistemi informativi, intelligenza artificiale, sono i temi fondamentali da qui ai prossimi anni. È evidente quindi che le competenze dovranno essere molto orientate su questi argomenti. Paola Cortese, TGR Friuli Venezia Giulia. E si conclude oggi a Gorizia il Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, sorta di un Consiglio dei Ministri, dei Vescovi, che si svolge eccezionalmente in città in occasione di Go20, 25 Capitale Europea della Cultura. Ieri sera alla veglia di preghiera in Piazza Transalpina, a cui hanno partecipato molti giovani, oltre a quelli italiani, i vescovi sloveni e croati che hanno lanciato un appello perché tacciano le armi a favore della pace. Ma sentiamo il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, nell'intervista di Antonio Di Bartolomeo. Un luogo dove è scorso tanto sangue, dove tanti hanno perso la vita, abbiamo raccolto, io credo, il testamento di quelle persone, che è questo qui, che è quello di imparare a vivere insieme, di essere se stessi, non di diventare tutti uguali, che non siamo tutti uguali, ma di essere se stessi, non contro o senza gli altri, ma insieme agli altri. Trieste, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Economia e lavoro. Dopo 3 anni di cali, il mercato europeo degli elettrodomestici si stabilizza nel primo semestre 2025, seppure a livelli modesti. Il sindacato chiederà al Ministero del Lavoro l'apertura di un tavolo di settore per rilanciare la produzione, appunto, di questo tipo di prodotto, l'elettrodomestico. Nonostante i livelli siano ancora modesti, il mercato europeo degli elettrodomestici si è stabilizzato e per Electrolux i volumi risultano, seppur di poco e con l'eccezione di Susegana, superiori alle aspettative. E quanto emerso ieri in un incontro azienda-sindacati a Bologna. Gianni Piccinin, FIM CISL. C'è stato un primo trimestre del 2025 leggermente positivo e poi si è stabilizzato. Rimane comunque un settore in difficoltà. A Porcia le lavatrici crescono rispetto al budget iniziale da 620 a 712 mila pezzi nel 2025. Cala invece Susegana in Veneto, che passa da 587 a 600 mila frigoriferi, con previsioni in ulteriore diminuzione per il 2026. Regge dunque la fabbrica friulana a 1300 dipendenti, di cui circa la metà operai, dove i contratti di solidarietà sono in vigore fino a gennaio prossimo. Mercoledì è in programma un incontro per valutare una differente gestione della solidarietà. Ancora Piccinin. C'è una situazione positiva, che sembrerebbe qualche numero in più da produrre. Sembra che tutta la parte produttiva, quindi le linee di montaggio, non dovrebbero fare la solidarietà. Quindi discuteremo di questo, discuteremo se c'è la possibilità a questo punto di sospendere la solidarietà. Se questo fosse possibile, tutti i lavoratori in fabbrica risparmieremo qualche settimana e quindi eventualmente la useremo il prossimo anno su un 2026 che ad oggi comunque è incerto. È una situazione, tra l'altro, che oggi non vede ancora l'azienda fare chiarezza sul budget 2026. FIM, FIOM e WILM chiedono poi al Ministero delle Imprese del Made in Italy la convocazione di un tavolo di settore con misure in grado di rilanciare la produzione nazionale di elettrodomestici. Porcia, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Questa mattina Buongiorno Regione, che ha ripreso questa settimana e va in onda dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 8 del mattino, abbiamo parlato dell'artigianato che cambia in un momento in cui cambiano anche le nostre abitudini, secondo una recente indagine della Coop proprio sulle abitudini degli italiani. Di fronte al calo delle imprese artigiane viene chiesto un cambio di mentalità. Secondo l'ultimo rapporto Coop, i consumatori tendono sempre di più a riparare anziché buttare, ma al tempo stesso calano le imprese di chi ripara e rinnova, cioè quelle artigiane. Dal 2011 a oggi in Friuli Venezia Giulia hanno chiuso in oltre 2600. Crescono in controtendenza quelle con titolari stranieri, passate da 14 al 23%, un dato positivo, ma non basta. Per il presidente di Confartigianato Friuli Venezia Giulia, Tilatti, il settore non passa un buon momento, anche per una questione di mentalità. Noi i nostri figli non vogliamo che lavorino con le mani, anche se oggi il lavoro dell'artigiano che è fatto di competenze, di saper usare le mani, ma anche di competenze anche di carattere digitale, quindi non capiamo questo messaggio che passa ancora per le famiglie. Va superata anche la contrapposizione tra studio e lavoro manuale. Il mestiere si può imparare andando a bottega, ma senza rinunciare ai diplomi. È il momento giusto, ecco, anche di dire ai nostri figli diplomatevi, laureatevi, ma frequentate queste botteghe di mestieri, di antichi mestieri, che possono dare tantissime soddisfazioni per sé e per la propria famiglia. La scuola stessa può diventare protagonista. La Regione ha messo in campo nuovi progetti. Il primo si chiama Passaggio Generazionale, arruola artigiani esperti per insegnare ai più giovani. A breve partirà anche Nuova Impresa per aiutare con corsi e formazione ad aprire nuove imprese. E poi Attiva Scuola, che porterà laboratori artigianali già nelle scuole primarie. Elisa Marzinotto, direttrice servizio e formazione della Regione Friuli Venezia Giulia. In particolare, già dalla quinta elementare è possibile per i nostri ragazzi partecipare al laboratorio Mi Scopro Artigiano, dove i ragazzi hanno modo di entrare in contatto anche con questi mestieri che prevedano l'intelligenza delle mani. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora le storie di chi di artigianato ha scelto di vivere. Il lavoro non manca, ma ci vuole passione. A Trieste siamo stati da uno storico calzolaio e da una rammendatrice. Ascoltiamo. Già il nome sulla targhetta ha un che di antico. Mendaressa in triestino vuol dire rammendatrice e sono 30 anni che Francesca Bottan fa questo mestiere in un minuscolo negozio nell'ex portineria di un palazzo storico di Via Battisti a Trieste. Ho imparato da un'anziana rammendatrice che non era neanche di Trieste, che gelosamente dopo 2 o 3 anni mi ha insegnato un po' il mestiere. Che io sappia non c'è più nessuno, sono l'unica. Quando io ho iniziato ce n'erano almeno 3 in tutta Trieste. Perché, le chiediamo? Credo che manca un po' di cultura. Per esempio, una volta esistevano la famosa materia educazione tecnica, dove i ragazzi imparavano a cucire, a cucinare, a fare vari mestieri. Adesso non... Il lavoro quindi non manca, anche perché, spiega, oggi la richiesta di piccole riparazioni è più alta che in passato. Si ripara di più, parliamo soprattutto di abiti di una certa qualità, no? Perché negli abiti, diciamo, poco prezzo è difficile anche recupero. Clienti non mancano neanche per un altro mestiere con numeri in calo, i calzolai. Sempre a Trieste se ne è perso quasi uno all'anno rispetto al 2011. Tra chi resiste c'è Renzo Colia, figlio e nipote di calzolai. Noto un aumento delle riparazioni, specialmente la gente ricorre alle scarpe vecchie che ha in casa e tende a ristrutturarle e a rimetterle in strada perché sono oggetti magari anche di qualità superiore rispetto a quello che forse si trova adesso sul mercato. Colia ha trovato a chi passare il testimone, ma non sempre va così e non ci sono scuole che formano questa professionalità. Attualmente ho 3 dipendenti e sicuramente 2 porteranno avanti questo tipo di attività. Tra i colleghi in città che io conosco non c'è nessuno che ha un discepolo, chiamiamolo così. La riparazione, una scuola non c'è, bisogna trovare qualcuno che ti insegni il mestiere. Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia. La sanità ora crescono le criticità attorno all'affidamento parziale ai privati del servizio di radiologia dell'azienda sanitaria del Friuli Occidentale dopo i ritardi nell'avvio del nuovo assetto, scrive in una nota stampa il coordinamento salute FVG. Lunedì è stato reso noto il decreto del direttore generale che ha sostituito la responsabile unica del procedimento dimessasi lo scorso 6 agosto proprio all'inizio della fase operativa del nuovo servizio. Secondo le previsioni dal 1 agosto i privati avrebbero dovuto coprire interamente le sedi di Sacile, Maniago e Spilimbergo e integrare il pubblico a Pordenone e San Vito per emergenze notturni e weekend. Ma la realtà pare ben diversa. Verifiche sulla Psesamo confermano che a Sacile e Maniago non ci sono posti, solo rare disponibilità a San Vito e a Pordenone. Spilimbergo è l'unica sede con offerta regolare ma limitata. Anche i privati convenzionati sembrano ora meno in grado di sopperire. Sono le 12.44 la cronaca. I carabinieri di Trieste hanno arrestato a Muggia un 41enne sloveno destinatario di un mandato d'arresto europeo per furto aggravato, appropriazione indebita e falsificazione di documenti. L'uomo è stato individuato in via Hermet mentre saliva su un'auto con targa falsa. Nel suo domicilio sono stati sequestrati contratti sospetti, chiavi d'auto, simusa e getta e uno jammer per disturbare i sistemi di localizzazione. È stato trasferito nel carcere di Trieste. Decisivo l'intervento dell'esercito italiano tramite il centro operativo di Aviano per il soccorso a una donna statunitense di 36 anni rimasta gravemente ferita dopo essere caduta in un burrone a Cison di Valmarino in provincia di Treviso. L'elicottero militare mobilitato su richiesta dei soccorritori ha permesso il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Treviso data la gravità delle lesioni riportate. La donna presente nella zona per frequentare un corso di cucina in un locale del posto non aveva fatto rientro nel pomeriggio, facendo così scattare l'allarme da parte dei colleghi. Le ricerche coordinate dai vigili del fuoco, dal soccorso alpino e dai carabinieri si sono concluse col ritrovamento della 36enne in fondo a un dirupo dove era precipitata dal sentiero sovrastante. Diamo ora uno sguardo al meteo, cielo coperto su tutta la regione, le temperature registrate alle 11, Trieste 19 gradi e mezzo, mare poco mosso con la temperatura di 24 gradi, Udine, Gorizia 17 gradi, Pordenone 16, Tolmezzo 13 gradi, Tarvisio 12, Forni di Sopra e Piancavallo 11 gradi, Sappada 10, Montelussari 7 gradi, Montezoncolan 7 gradi, Grado 19 gradi e mezzo, Lignano 15 gradi e mezzo, temperatura del mare in entrambe le località di 23 gradi. Vediamo le previsioni meteo a cura dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Per questo pomeriggio tempo ancora instabile con cielo da nuvoloso a coperto, saranno probabili rovesci e temporali con piogge intermittenti da abbondanti a intense, localmente anche molto intense, specie su zone occidentali della costa e bassa pianura. Sulla costa vento moderato, in genere da est, dal tardo pomeriggio sera possibile temporanea attenuazione dell'instabilità. Domani cielo variabile in giornata, possibili piogge sparse, in genere deboli e forse anche rovesci. In serata e nella notte successiva probabili piogge più abbondanti, anche temporalesche, specie su pianura e costa. A Udine si celebrano i 25 anni di Tech4i, FVG, parte dell'ecosistema per l'innovazione del Friuli Venezia Giulia, fino alle 14 nella sede della società, eventi di approfondimento su imprese, start-up, istituzioni e centri di ricerca. Da Friuli Innovazione a Tech4i, FVG, 25 anni al servizio delle imprese della regione, mettendo loro a disposizione tecnologia per essere competitive. Con un valore della produzione pari a 2,7 milioni di euro, tre bilanci consecutivi in utile, la società è un hub dell'innovazione, punto di riferimento per start-up e piccole e medie imprese, in Friuli Venezia Giulia, ma ora anche in altre regioni. Filippo Bianco, amministratore delegato Tech4i FVG. Il presente è un team di 25 persone che assieme alle nostre infrastrutture di ricerca, alle nostre, ai nostri asset, permette di offrire servizi a valore aggiunto per il territorio. Stefano Casaleggi, presidente Tech4i FVG. Gli obiettivi del futuro. Continuare questa crescita che abbiamo sviluppato negli ultimi 4 anni con le nostre aree di specializzazione, con il focus molto forte sulla piccola e media impresa e sui giovani talenti, e riuscire però a farlo creando asset, pezzi di laboratorio, posti dove si possa sperimentare prima di investire da parte delle imprese. Cuore tecnologico del lab dedicato all'innovazione, il laboratorio dove trovano applicazione, design e manifattura della stampa 3D. Fabio Nocent, Tech4i FVG. È possibile ottenere dei pezzi molto personalizzati e ottimizzati per il funzionamento specifico del componente, ad esempio nelle industrie aerospaziali o medicali. Tecnologie che trovano applicazioni anche nella valorizzazione del patrimonio culturale, innovazione ma anche formazione di giovani qualificati a disposizione delle imprese. Paola Perabò, ITS Academy Udine. Mentre l'ITS Academy Udine opera soprattutto sulle competenze tecniche, le competenze sviluppate da Tech4i vanno sulle soft, quindi, e anche sull'imprenditorialità. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Gli studenti universitari impegnati in attività di tirocinio curricolare presso l'Osservatorio regionale antimafia sono stati accolti ieri nella sede della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia di Trieste, dal capo sezione Luca Petrocchi. L'incontro ha offerto ai giovani tirocinanti un'occasione concreta per conoscere da vicino il lavoro di una delle principali istituzioni impegnate nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata. La cultura della legalità, ha dichiarato la presidente dell'osservatorio Barbara Clama, non è solo condizione imprescindibile per costruire una società libera dal ricatto mafioso, ma anche strumento di contrasto efficace e accessibile a tutti. A Trieste il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale Claudio Giacomelli ha fatto il punto sull'utilizzo del Delfino Verde fino a Barcola, una tratta proposta finora in via sperimentale. Il cielo piovoso, la fine dell'estate, il servizio di collegamento marittimo Miramar si è fermato il 14 settembre e festeggia un aumento del 65% del numero di passeggeri rispetto all'anno scorso. Si tratta di 5 corse giornaliere gestite dalla compagnia Delfino Verde per conto di Trieste Trasporti, che da giugno a settembre hanno potenziato i collegamenti tra Trieste e Grignano, confermate in Porto Vecchio, a Barcola e ai Topolini. Un servizio aggiuntivo quindi rispetto a quello fornito da TPL, introdotto lo scorso anno con un emendamento in consiglio regionale di Claudio Giacomelli e finanziato ancora per il prossimo anno. Concepito come un autobus del mare, il servizio è riuscito, afferma Giacomelli, a togliere dalla strada qualcuna delle tante automobili che affollano la riviera barcolana in estate, ed è stato gradito anche dai turisti, un'ora di viaggio circa per arrivare a Grignano, 50.737 i passeggeri totali, 480 in media al giorno, con picchi a Ferragosto e il 12 settembre, quando sono stati in più di 1.380 a prendere il Delfino Verde per Barcola. Le corse cancellate a causa del maltempo sono state il 2%, novità di quest'anno la possibilità di fare il biglietto elettronico e l'inclusione in un unico abbonamento su 3 tratte per i residenti. Sarebbe molto utile una fermata a Miramare, afferma il consigliere Giacomelli, ma questa idea si scontra con questioni di sovrintendenza e ci sono dubbi su possibili danni all'ecosistema marino. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Giovanissima e bellissima, mentre passeggia sul molo Audace di Trieste nel film in bianco e nero Senilità di Mauro Bolognini del 62. Così vogliamo ricordare Claudia Cardinale, scomparsa ieri all'età di 87 anni, che appunto nel 1962 interpretò Angiolina, protagonista del film tratto dall'omonimo romanzo di Italo Svevo. Per i puristi sveviani, all'epoca vedere la Cardinale sugli schermi nei panni di Angiolina fu quasi uno shock. Al posto della biondona romana descritta in Senilità, la Cardinale era una sofisticata brunetta con i capelli a caschetto. Celebre la sua passeggiata sul molo Audace con l'attore americano Anthony Franciosa nei panni di Emilio. Ascoltiamo l'intervista che Andrea Vardanega fece proprio a Claudia Cardinale 17 anni fa in occasione del Trieste Film Festival. La celebre diva racconta quella passeggiata sul molo con i capelli al vento nel 2008 a Trieste, rivide dopo tanti anni nuovamente il film. Lì c'era veramente, quel giorno me lo ricordo ancora, e ovviamente vabbè, per me, io amo molto molto Trieste, e poi per me mi manca tanto Mauro Bolognini, con il quale ho lavorato tanto. Ovviamente ci ispirò, la cosa fu a Louis Brooks con la parrucca nera, poi i costumi meravigliosi di Piero Tosi, anni 30, eccetera. Sì, fu un po' una cosa, però io trovo che bisogna aver coraggio per prendere rischi, va benissimo. Hai più visto quel film da quello? No, infatti adesso non vedo l'ora stasera di rivederlo. Adesso deve dirmi tutto di sé, vuole? Veramente ho poco da raccontare, sa. Sto sempre in casa perché anche se siamo poveri non ho bisogno di lavorare. Ma lei è abbastanza libera, mi pare. Beh, sì. Ma in che senso? Voglio dire che i suoi genitori non stanno sempre lì, sempre attenti. Lei immagino può uscire quando vuole, no? Sa, quando non c'è da fare in casa. Fortunatamente c'è mia madre e mia sorella piccola. Siamo 3 donne e un uomo. Allora quando ci rivediamo? Per me anche domani. Domani? Bene. E allo stesso posto? Va bene, sì. Alla stessa ora. Chissà se questo incontro ci porterà fortuna. Chissà. Ciao. E a proposito di cinema, il Friuli Venezia Giulia rafforza il suo impegno nella promozione del territorio proprio attraverso il cinema. L'occasione e l'anteprima del film esprime un desiderio che si è tenuta al Teatro Modena di Palmanova, dove appunto è intervenuto il presidente della regione Fedriga, dicendo appunto che è proprio attraverso il cinema che si può promuovere il territorio. Ora parliamo di una prima assoluta, la trasposizione di testi di Claudio Magris in forma di rappresentazione scenica e in forma musicale. Stiamo parlando di Fedeli d'amore di Giorgio Battistelli, tratto dal romanzo d'esordio Un altro mare del grande scrittore triestino, che racconta del profondo rapporto tra Carlo Michelstetter ed Enrico Mreule a inizio Novecento. Sipario il 27 settembre nell'hangar dell'aeroporto Duca d'Aosta a Gorizia alle 17:30 e il giorno dopo al Teatro Verdi di Trieste alle 18. L'evento rientra nel programma di Go 2025. Il regista Simone De Rai ci ha parlato del filo rosso che unisce la capitale europea della cultura al rapporto tra i due giovanissimi Michelstetter e Mreule. Sentiamo. Io penso innanzitutto il segno, direi la stella dell'amicizia. Questa è chiaramente anche un'amicizia di carattere intellettuale, ma non solo. Però dal punto di vista del pensiero, questi due giovani, poi in realtà Enrico Mreule visse a lungo, mentre Michelstetter, sappiamo, si suicidò giovanissimo al termine della composizione della sua tesi di laurea in filosofia nel 1910. La loro, dicevo, è una luce, un'amicizia luminosa che sconfina. Ecco, e questo direi che è la questione fondamentale anche per la celebrazione di questa capitale della cultura. Il linguaggio e il dialogo oltre confine, transfrontaliero, e nella loro storia diventa, nella storia di Enrico e di Carlo, non solo nella scena, ma nella vita reale, il loro dialogo si è fatto faro, per anticipatore, quasi profetico, delle vicende storiche del Novecento, nelle loro parole, nei loro scritti, nelle loro azioni, nelle loro fughe dal mondo, in qualche modo. Mreule al di là dell'oceano, nell'America del Sud, e Carlo Michelstetter invece con un abbandono ben più definitivo, dichiaravano anche una presa di posizione, una postura rispetto al mondo che vedevano trasformarsi. E nei loro scritti, ripeto, c'è una parola, una voce, un pensiero profetico che preannuncia non solo il Novecento, ma anche i giorni che stiamo vivendo oggi. Ed è tutto per questa edizione del GR regionale della RAI. Al microfono Lorenzo Gerlinzoni e Anna Vitaliani. In redazione ha collaborato Isabella Paruto, in regia Viola Romanese. Grazie a tutti per l'ascolto. L'informazione regionale radiofonica della RAI torna alle 15. Buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.